Dorinda, così vai complicando, cara amico Isabella, e l'ama portando. Io, signor, malintese, che le riferì, d'Angelica parla. Dimmi, di quale Angelica tu intendi? Di quella che era amica, e poi se ne partita, col suo minore, darei tanto amato. Amavo pure anch'io, che era l'ingolo mio, e mi lasciò schernita. Se per questo gioiello adonato, che mio, o te, questo il maniglio appunto, che già di ziliante ha preso duro, e che io dopo alle piedi, oh, io non posso dubitar che la sia che mi tradisce. E costui tardisce e serve rivale il regir casso, o ferro tutto il volo. Ci avevo detto che chiama Simmedoro, ed è giovane e meglio d'una buona struttura. Io non posso scordarlo, ed ora tutto che mio, parvi che sia